e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, c'è un suono che conosciamo molto bene, arriva ogni giorno, puntuale, più o meno alla stessa ora. Non mi riferisco alla sigla di Cuore e Denari, che speriamo sia per voi un appuntamento non solo fisso, ma soprattutto gradito. Che dici? Ecco. Speriamo. Penso a quella telefonata fastidiosa che disturba magari mentre, proprio in quel momento in cui ci stiamo sedendo a tavola, anzi, proprio in quel momento in cui abbiamo già messo il primo boccone in bocca. Eccolo là. Dall'altra parte della cornetta che c'è un operatore che vuole proporci un contratto, venderci qualcosa, sottoporci l'ultima promozione. Allora, avrete già capito che stamattina parliamo di telemarketing nella prima parte del nostro programma. Oltre alle strade che possiamo intraprendere per cercare di ridurre queste fastidiose telefonate, capiremo anche quali sono i rischi da cui è bene difendersi, perché qualche volta ecco che al termine della telefonata non si sa come abbiamo firmato un contratto del quale proprio non abbiamo capito nulla. Prevenire è meglio che curare, questa regola non vale solamente per la salute. E allora 800 24 00 24, se anche voi ricevete chiamate poco gradite e non sapete come liberarvene, chi vi chiama, cosa vi dice, cosa vi propone e voi come vi comportate? Chiamateci, voi siete molto graditi all'800 24 00 24. E a proposito di salute, nella seconda parte torniamo ad occuparci di due temi che ci stanno particolarmente a cuore con il dottor Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Parleremo delle nuove norme sulle sigarette e sui prodotti da fumo che entrano proprio in vigore da oggi, l'attualità lo impone, e quindi tempi duri per i fumatori che dovranno adattare ad una serie di norme che non si vedevano dai tempi della legge Sirchia. Secondo la nuova legge, ad esempio, sarà vietato fumare in auto con i bambini, le donne incinta, non mancano le maxi multe per chi butta a terra i mozziconi, che contengono tra l'altro sostanze nocive, nicotina, benzene, ammoniaca, che possono avere effetti gravi sia per l'uomo che per l'ambiente. A proposito di ambiente, il secondo tema di cui tratteremo oggi è naturalmente quello dell'aria che respiriamo nelle nostre città. I livelli di inquinamento sono tornati a salire, trasformando le nostre città in vere e proprie camere a gas. E allora, nell'attesa della pioggia, 800 24 00 24, molti cercano di, no, non, dicono che è inutile, sia inutile smettere di fumare se intanto poi la qualità dell'aria è così, no? Così. Però ecco, e questa è una delle solite scuse. Affronteremo anche questa insieme al dottor Boffi, cercheremo di vederci più chiaro, quindi aria che respiriamo e fumo che danneggia la nostra salute e quella altrui, alla luce delle nuove norme. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Io ho dato disdetta la linea fissa perché ricevevo solo proposte commerciali. Ora mi chiamano sul cellulare, adesso ogni volta blocco il numero chiamante. Un altro ascoltatore: è stata proprio la goccia che mi ha fatto decidere di dare la disdetta al canone del telefono fisso. Ogni giorno ne ero più impensabile, era diventato un incubo. Una stessa società anche più volte la settimana. Allora ci occupano il telefono proprio magari mentre stiamo aspettando una chiamata importante, ci disturbano, a volte ci spaventano perché sono anche un po' molesti e soprattutto lo sono anche con gli anziani. Altre volte ci fanno correre il rischio di accettare una proposta commerciale che non è esattamente conveniente come sembra, magari solo perché non abbiamo una risposta pronta. Allora parliamo dell'universo telemarketing stamattina, di tutte quelle chiamate che hanno una finalità commerciale, promozionale, quindi legittima, ma sono chiamate che riceviamo con un po' troppa frequenza nelle nostre case o anche sui nostri cellulari. È diventato veramente difficile difendersi. 800 24 00 24, raccontateci cosa succede a casa vostra, se anche voi ricevete chiamate poco gradite, non sapete come liberarvene, chi vi chiama, cosa vi dice, come vi comportate, o peggio, vi siete ritrovati ad aver firmato inconsapevolmente un contratto dopo una proposta commerciale e adesso non sapete più che cosa fare perché vi arrivano delle bollette che non aspettavate. Ne parliamo con un bel po' di ospiti oggi. Intanto ringrazio e saluto Riccardo Quintili, direttore del test Salvagente. Riccardo, buongiorno, direttore, benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Eccoci qua, proprio giovedì scorso il direttore Quintilli ha moderato un convegno organizzato dal TEST, che è una importante rivista dei consumatori, dal titolo Telemarketing, attivazioni non richieste, le soluzioni contro un mercato selvaggio. Convegno al quale è intervenuto anche il dottor Giovanni Calabrò, direttore della divisione consumatori dell'antitrust, l'autorità garante della concorrenza. Dottor Calabrò, benvenuto anche a lei, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. 800 24 00 24, ribadisco il numero verde che invece dovete comporre voi di vostra iniziativa per raccontarci se siete malcapitate vittime frequentemente, quotidianamente, appunto, di questo telemarketing così aggressivo. Vi è capitato anche di attivare un servizio con questa modalità? Poi che cosa è successo quando vi siete resi conto dell'attivazione di una promozione, di un contratto al quale non pensavate di aver dato il vostro assenso? Scriveteci anche al 349-238-6666. Io leggo gli sms, Nicoletta riesce a monitorare, sì, i WhatsApp già arrivano. Infatti già messaggi. Anche Paola dice che ha risolto lo stalking telefonico. Eccolo. Togliendo il fisso. Ecco qua. E quindi alla fine della fiera un po' le compagnie telefoniche, che magari sono loro stesse ad attivare dei call center per fare queste proposte commerciali, hanno, come dire, una ritorsione contro, perché la stessa clientela addirittura disdice gli abbonamenti. Allora, Riccardo Quintilli, nel numero di febbraio del test Salvagente voi vi occupate proprio con un lunghissimo articolo di questo tema, che per qualcuno sta diventando un problema. Incubo. Esatto, io penso a mia mamma quanto si lamenta, me ne racconta una al giorno. Ormai appena li sentiamo mettiamo giù direttamente il telefono, senza poi tra l'altro ricordarci che magari dall'altra parte della cornetta c'è un ragazzo che lavora e che, peggio, spesso riesce a mettere in piedi anche un pezzo di stipendio grazie al numero di contratti che riesce a far firmare con la proposta telefonica. Allora, voi, Riccardo, parlate senza mezzi termini di truffa che corre lungo il filo. È un'espressione, mi sembra un po' forte. Come mai avete scelto questo titolo? Sono certamente delle pratiche commerciali un po' spinte, aggressive, ma addirittura sono delle truffe? Caso sì, sicuramente in qualche caso sì, ci riferiamo per esempio a tutti quei contratti fatti al telefono, mai firmati dal consumatore, quindi con la posizione di firme false, con le registrazioni, come dire, fraudolente. In questi casi sì, si può parlare di truffa. In generale il problema è chiaramente quello dei contratti non richiesti, quello della privacy. Quello anche della correttezza commerciale. Riccardo, facciamo una cosa, noi non ti sentiamo bene qui stamattina, stiamo parlando di telefono e ogni mattina ne succede sempre una con i collegamenti telefonici dei nostri ospiti. Magari riproviamo a ricollegarci con te, intanto vado dal dottor Calabrò, che abbiamo avuto la sensazione di sentire un po' meglio dal punto di vista qualitativo. Dottor Calabrò, facciamo un test. Eccoci. Con lei, eccoci qua, ecco, molto meglio. Forte. Adesso e chiaro. Ripristiniamo la telefonata con il direttore del test. Allora, vengo al ruolo dell'autorità nella cercare di combattere queste situazioni, no? Per queste pratiche le società vengono ripetutamente sanzionate, multate, però a quanto pare sembra non cambiare nulla. La questione non è ricevere delle proposte commerciali alle quali, anche se insistenti, possiamo dire di no, no? La questione è quando, non si capisce bene come, riescono comunque a strappare un contratto, e nella maggior parte dei casi il consenso da parte del consumatore non c'è, o quantomeno non è mai consapevole, no? Abbiamo un'indagine che volevo poi raccontare, secondo la quale sebbene 9 su 10 consumatori vengano contattati almeno una volta via telefono per una proposta commerciale relativa ad un cambio di gestore, quella del telemarketing è comunque una pratica che non sopportano. Questa indagine sostiene che il 70% delle persone che vengono contattate per telefono per un cambio di contratto riagganciano senza nemmeno dare all'operatore di call center la possibilità di illustrare l'offerta. Le vittime, chiamiamole così, del telemarketing selvaggio continuano ad aumentare. Ci spiega che potere di tutela dei consumatori ha l'autorità garante del mercato su queste pratiche di procacciamento clienti un po' aggressive, dottor Calabrò? Guardi, il potere dell'autorità è un potere innanzitutto di accertamento delle eventuali violazioni e eventualmente anche dell'irrogazione di sanzioni. È chiaro che l'autorità non può intervenire nei confronti del singolo disguido, del singolo caso. Occorre che ci sia una pratica commerciale non corretta, una pratica scorretta, e in alcuni casi le pratiche da voi riferite addirittura hanno un carattere particolarmente invasivo, lesivo della sfera del consumatore, quindi dell'individuo, tale da farle configurare come pratiche commerciali aggressive e che quindi meritano una particolare attenzione e anche in termini eventualmente di sanzione. L'autorità interviene a seguito di segnalazioni o dei consumatori o delle associazioni dei consumatori che hanno un ruolo un po' di filtro, di selezione, questo perché chiaramente immaginiamo un utility che abbia milioni di clienti, può capitare un singolo disservizio, quello che non deve capitare è che ci sia una condotta di agenti, di operatori col telemarketing o anche con altre modalità, perché talvolta queste pratiche accadono anche a seguito di attività svolte con vendite a distanza, con presenza diciamo presso i domicili dei consumatori a cui vengono estorte in qualche modo dei consensi non voluti o in alcuni casi marginali addirittura abbiamo casi di contratti inesistenti in quanto sottoscritti con false sottoscrizioni o sottoscritti da persone non più esistenti, quindi chiaramente abbiamo una firma non autentica. Ecco, ma dottor Calabro, quando vi arrivano queste segnalazioni, come lei ci diceva, o dai singoli individui o comunque come segnalazioni un po' più raggruppate da parte delle associazioni dei consumatori, poi voi come andate ad indagare per dimostrare che effettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto siano avvenute secondo questi criteri assolutamente non trasparenti? Che tipo di indagini fate? Noi la prima cosa che facciamo delle verifiche preliminari, quando abbiamo la sensazione, la percezione di avere sufficiente materiale informativo, quindi abbiamo svolto una preistruttoria, avviamo un procedimento e in fase di avvio di questo procedimento andiamo presso le imprese e facciamo delle verifiche in loco, presso proprio le strutture di vendita delle imprese e lì abbiamo modo di verificare se si tratta di disguidi o se invece si tratta di pratiche commerciali aggressive o comunque non corrette. Quindi addirittura l'autorità garante del mercato manda, invia dei funzionari presso i call center per verificare come fanno il loro lavoro, questo esatto, non lo sapevamo. Presso i call center o presso addirittura la direzione delle imprese, perché chiaramente poi abbiamo che i call center si devono relazionare con le imprese, quello che importa se c'è un call center che opera per conto di una grande società, grande o piccola società che sia, è ovvio che la società deve esercitare tutta una serie di controlli, se non li fa c'è chiaramente una responsabilità della società e quindi noi con questa verifica ispettiva in loco abbiamo contezza di quali sono le procedure e quali sono le istruzioni date ai call center e quali sono le verifiche sull'operato dei call center. Le dirò di più, in passato in alcuni casi c'erano maggiori verifiche sull'operato dei call center di adesso. Adesso con la crisi in alcuni casi si accettano contratti che in passato non si accettavano. Addirittura. Dottor Calabro, quando intervenite con una sanzione economica, con una multa, a quanto può ammontare Questa multa che infliggete alle società appunto che adottano queste pratiche commerciali non tanto scorrette, direi forzate, ecco, chiamiamole così? Allora, la sanzione può raggiungere l'importo massimo di 5 milioni di euro, la sanzione massima irrogata è dell'ordine di circa 2 milioni, e in questi casi diciamo più recenti nel settore dell'energia elettrica, poi ovviamente anche nelle telecomunicazioni sono state date sanzioni di importo diverso. Lei calcoli che nell'anno appena concluso l'autorità ha irrogato complessivamente sanzioni per pratiche commerciali scorrette per un importo complessivo superiore a 30 milioni di euro tra le varie imprese coinvolte. Pagano le società, dottor Calabro? La pagano sempre, salvo quando ovviamente si oppongono, a seguito del contenzioso vincono in sede di contenzioso giudiziale. Perdono un po' di tempo così. 30 milioni di euro però, insomma, è un bel... Ma le dirò di più, in caso di non ottemperanza alla decisione, chiaramente l'autorità, come ha fatto in alcuni casi nelle telecomunicazioni, penso ai servizi a valore aggiunto, diciamo, non stiamo parlando di teleselling, stiamo parlando in questo caso di altro, ha irrogato nuove sanzioni fino diciamo a giungere a una vera e propria diffida che ha fatto sì che ora le imprese finalmente sembrano essersi avviate alla soluzione definitiva del problema dei cosiddetti servizi premium a valore aggiunto. Quindi non c'è solo la sanzione, ma è un mix. Le dirò di più. Per le imprese conta molto l'effetto reputazionale, cioè una trasmissione come la vostra che parla di questa questione mi consente di dire probabilmente pesa per le imprese quanto e più della sanzione massima alle stesse. Speriamo, dottor Calabro, perché in realtà abbiamo l'impressione che i consumatori hanno l'impressione di essere comunque tartassati, in realtà da quello che so mi raccontano che le imprese mettono anche a budget un'ipotetica sanzione che dall'autorità di controllo può arrivare, per cui tremano ben poco. Allora tremiamo anche noi perché Carmelo Lauricella che in regia ha già gli occhi di fuoco, lui dice di no, però insomma adesso non comincia. Ci sanziona, ma è tempo di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Cuore e denari. Ti telefono, no, poi morale in cantina. E c'è chi non si pone affatto la questione del ti telefono o no e non si fa alcuno scrupolo a telefonarci. Parliamo di telemarketing aggressivo, ovvero di tutte quelle proposte commerciali che ci arrivano a tutte le ore del giorno, qualche volta anche in tarda serata. Tra l'altro sono telefonate quasi mai mirate, ma diciamo proprio a pioggia, proprio perché funzionano anche con un sistema informatico di cui magari poi parleremo. Operatori che recitano a memoria la loro proposta e non hanno alcuna idea del profilo della persona a cui stanno facendo appunto la proposta commerciale. Stavo pensando al fatto che a me continuano ad arrivare per esempio delle telefonate di una società della quale sono già cliente, continuano a propormi l'abbonamento per il telefono mobile, io continuo a dire ho un telefono aziendale e non mi interessa, e loro però non se lo scrivono, ogni giorno arriva lo stesso. E voi di quali avventure siete stati i protagonisti? 800 24 00 24 il numero verde per le vostre testimonianze. Ripristino il collegamento con Riccardo Quintili, direttore del Test Salvagente, che ci ha dato l'idea anche di fare questa trasmissione perché loro sono stati promotori di un grande convegno che si è svolto a Roma giovedì scorso. Riccardo, direttore, ci senti adesso? Eccoci qui. Molto meglio. Facciamo la prova a voce. Esatto. Allora, noi abbiamo un po' rifatto il punto della situazione. Voi con il test che cosa avete scoperto? Ci diceva prima il dottor Calabro dell'antitrust. Sanzioniamo tanto per importi anche notevoli, ma in realtà da quello che sappiamo le aziende mettono a budget queste possibili sanzioni che possono arrivare con le loro iniziative di telemarketing vanno avanti. Come si difendono i consumatori, Riccardo? Guardate, una delle cose secondo me essenziali che diceva Calabro è il danno all'immagine. Questo è forse il pericolo maggiore per le aziende, perché poi alla fine è evidente che pagano le multe, mettono a budget, evidentemente guadagnano di più con i contratti scorretti di quanto paghino. Ma quanti ne riescono a portare a casa? Perché adesso quello che ci stavamo chiedendo con Nicoletta, microfoni spenti, io chiudo il telefono, lei lo chiude, tutti quanti lo chiudiamo, ormai non li sopportiamo più. Quanti contratti al giorno riusciranno a far firmare, anche se ci fosse questa massa di sprovveduti in Italia, no, che firmano inconsapevolmente, Riccardo? Quanto business riescono a mettere in piedi? Io direi molto, visto che proprio diciamo le statistiche che citavate voi e citavamo anche noi sul giornale dicono che 3 su 4 attaccano il telefono e quindi non proseguono la conversazione. Quel quarto che rimane evidentemente è un mercato, quel quarto di consumatori che rispondono, che continuano la telefonata, è un mercato comunque importante evidentemente. Quello che viene chiesto è chiaramente a tutte le autorità, quello che poi è stato anche uno dei risultati del nostro convegno. Viene chiesto alle authority nuove regole, altre regole che possano in qualche modo tutelare i consumatori. Una di queste, che non tutte le authority, l'antitrust sicuramente sì, ma non tutte le authority accettano, è una semplice regola, secondo me anche molto intelligente, è se io ho un contratto non richiesto, se dimostro che il contratto non l'avevo richiesto, non l'avevo firmato, non devo pagare neppure la prima bolletta. E questo diciamo sarebbe un deterrente molto forte probabilmente. Lo so, poi però lì si scatena un altro contenzioso, magari ti mandano anche a finire nel registro dei cattivi pagatori con qualche modalità. Adesso ne parliamo. Intanto le modalità di difesa che attivano i consumatori, soprattutto quelli che si informano su queste pratiche, no? Oltre a non rispondere, chiudere la cornetta a tutte queste pratiche, appunto chiudere la cornetta che è un atto distinto. Negli anni passati noi abbiamo spiegato tante volte che ci si poteva appellare alla privacy iscrivendosi al cosiddetto registro delle opposizioni, ed è quello che ha fatto Giuseppe da Roma. Com'è andata, Giuseppe? Perché a noi risulta che lo abbiano fatto in tanti, spiegavamo molto bene anche la procedura, ma non si sa come le telefonate continuano ad arrivare. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e Deborah. Sì, mi sono iscritto appena uscì al registro delle opposizioni. E la cosa in sé per sé non ha avuto un grandissimo effetto perché hanno continuato a telefonarmi, però devo dire che adesso ho trovato un sistema, come dire, per ridurre il numero delle telefonate, che è una frase standard che adopero ogni volta che capisco che si tratta di una telefonata di questo tipo, e gli informo dicendo: guardi, non mi interessa quello che sta dicendo, però la informo che questo numero è iscritto al registro delle opposizioni, io sto registrando questa telefonata e se mi richiamate vi denuncio. E quindi voi state, ecco, scompaiono, prendono la fuga. Però insomma, però il tema è, Giuseppe, grazie per la sua testimonianza, che questo registro delle opposizioni non funziona. Dottor Calabrò, non lo gestite voi, lo gestisce l'Istituto per la Privacy, no, l'autorità per la garante della privacy? Lo gestisce il garante per la privacy, chiaramente di fronte a reiterate condotte nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle opposizioni, quindi che non dovrebbero ricevere le chiamate, questo potrebbe configurare, almeno in astratto, una pratica commerciale aggressiva e quindi potrebbe essere oggetto di segnalazione a noi, ma noi non gestiamo quel registro. Certo. Riccardo Quintilli, volevo chiedere a te un commento sulla questione del registro delle opposizioni. Appunto, ribadisco, noi, mi ricordo, abbiamo fatto un sacco di puntate spiegando passo per passo come funzionava, come ci si doveva iscrivere. Tutta una procedura inutile perché tanto le società aggirano, ma com'è possibile? Beh, innanzitutto diciamocelo chiaramente, l'avevamo detto all'inizio quando è stato istituito, l'avevano detto quasi tutte le associazioni dei consumatori, il registro delle opposizioni così come è stato concepito non funziona, non poteva funzionare e guarda caso non ha funzionato. È illogico pensare che chi non vuole le telefonate debba iscriversi a un registro per l'opposizione, era molto più logico che chi voleva essere contattato si fosse iscritto. Qui è stata scelta una logica opposta che non ha quella del silenzio assenso, anzi non so neanche come poterlo definire, ecco. Esattamente, in più ci sono talmente tante possibilità di scavalcare questo registro, perché chi non è presente sulle pagine gialle, sugli elenchi telefonici, non può iscriversi al registro per le opposizioni. Poi basta una firma qualunque, in qualunque contratto, sappiamo bene che sul web ci sono centinaia di casi in cui per chiudere un contratto, un qualunque contratto, un qualunque acquisto si deve spuntare o addirittura in qualche caso illecitamente è già spuntata la casella che consente poi di dare il nostro numero alle aziende che proprio fanno telemarketing. Quindi il registro è sostanzialmente un vessillo ma inutile, inutilizzabile, che di questo ormai siamo tutti molto coscienti, anche l'autorità della privacy. Riccardo, voi avete fatto per caso, non me lo ricordo nel vostro articolo, avete fatto per caso una graduatoria di chi sono le società? Perché c'è un'associazione dei consumatori che, se non mi ricordo male, l'ha fatta, è Codici, Luigi Gabriele, che viene spesso anche a Cuore e Denari, ha fatto proprio la graduatoria dei più molesti, dei più aggressivi con queste pratiche commerciali, adesso senza fare i nomi e cognomi delle società perché vabbè non vogliamo rischiare neanche di prenderci qualche querela se non abbiamo i dati che lo dimostrano, ma esiste, come dire, una differenziazione per settore? Sono più le società di telecomunicazioni che molestano di più o le società che distribuiscono gas, energia? Chi è? Chi sono? In questo momento questo è il momento dell'energia, perché con il passaggio al mercato libero, diciamo, è quello il campo in cui noi registriamo, anche l'autority, anche basta vedere un po' anche l'attività dell'antitrust e le multe dell'antitrust, è il campo in cui si popola di disagi per gli utenti, di contratti scorretti, di telefonate, diciamo, anche una su tutte, penso l'abbiamo ricevuta da tutti. Alziamo il telefono e ci si dice: siamo l'autorità per l'energia, sappiamo che sta spendendo di più di quanto sì. Lo stanno raccontando anche degli ascoltatori al 349-238-6666 e poi ancora in tanti che ci raccontano: ci siamo registrati a questo benedetto registro delle opposizioni, non funziona a nulla, insomma questo è il paese in cui va sempre così. Adesso ci fermiamo perché abbiamo il giornale radio fra un istante, poi è pronto Paolo da Padova e ancora tante le vostre testimonianze su questo fenomeno sul quale ridiamo, ma secondo me c'è ben poco da ridere. A tra poco. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Cuore e denari. Salve, buonasera signore, mi chiamo Bruna e la contatto da Italia. Il motivo della mia chiamata è per informarla che ha lanciato le delle nuove tariffe, certo, certo, lo so, come mi hanno già detto altri 25 suoi colleghi solo oggi. Salve, buonasera signore, sono Paolo Moretti, la chiamo da Italia. Signor Moretti. Buonasera signore, sono Paola e vi sto chiamando da parte di... Pronto? Salve, sì. Buonasera, sono Anna da... Lo sto chiamando per dargli un'informazione per l'ultima offerta che abbiamo lanciato. L'offerta, per Natale. Sì, sono le nuove tariffe, eccetera, eccetera, come mi hanno già detto una trentina di altri suoi colleghi prima di lei. Allora, lo vorremmo ascoltare tutto questo contributo, ma noi abbiamo qui la persona che, mantenendo assolutamente questa calma serafica, magnifico, sfido io di fronte a 40 telefonate di questo tipo, si è trovata appunto a gestire questo traffico di telefonate che non finiva più. Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di Day.it. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Continuiamo noi a parlare intanto di telemarketing. Complimenti, esatto, no, perché a un certo punto, alla quarta telefonata, ha detto: sai che c'è, faccio una bella inchiesta per il mio portale e ridenuncio. Hai cavalcato ovviamente l'onda, no? Professionalmente parlando, non ti sei di fatto un problema, una risorsa. Esatto. Vedi? Allora, sì, devo dire però, attenzione, che perché hanno avuto la sfortuna di trovare qualcuno che ha un megafono fatto da un mezzo di informazione per poter denunciare una cosa di questo tipo, ma i poveri consumatori che ricevono queste telefonate non possono molto. Allora, raccontiamo ai nostri ascoltatori quello che ti è successo, perché tutte queste telefonate nel corso di una giornata le hai ricevute davvero stesso grande gruppo di telecomunicazioni, forse proprio il più grande direi in Europa, Gianfranco, sì, ecco, quante telefonate in un pomeriggio? Una quarantina, tutte allo stesso numero di telefono in redazione qui da noi, quindi evidentemente il sistema, il cervellone che distribuisce il numero di telefono automaticamente, gli operatori del call center, esatto, non, perché non gli operatori non è che numero compongono loro, ma il nostro, no, numero, c'è proprio un computer centralizzato che praticamente, sì, le spara così a caso, ecco, non delistava, non cancellava il nostro numero dopo la chiamata fallita e quindi continuava a rientrare e il tempo proprio di appoggiare il telefono ripartiva. E la cosa incredibile è che anche più persone in parallelo, perché abbiamo un centralino ovviamente, quindi la telefonata viene accettata in ingresso fino a 6 linee contemporanee e quindi avevamo anche più di una persona collegata contemporaneamente con persone, l'avete sentito, dall'evidente accento straniero, esatto, altro punto che non abbiamo ancora toccato perché il tema è anche dove stanno questi call center, molte società delocalizzano largamente la loro attività. Beh sì, diciamo che noi ci occupiamo di tecnologia, quindi quando arrivano queste telefonate normalmente non attacchiamo, ascoltiamo perché magari c'è qualche offerta di cui non siamo a conoscenza che può essere anche una mezza notizia, cerchiamo di capire di cosa stanno parlando, però ci sono degli elementi che fanno capire quando la telefonata non è seria, come in questo caso. Beh, gente che parla con l'accento estero e si professa italianissimo, meglio con dei nomi italiani, fa pensare. Il signor Paolo Moretti aveva voci diverse nelle diverse telefonate e addirittura c'è stato un momento che avevamo al telefono su due linee diverse due volte Paolo Moretti in contemporanea. Ah, addirittura. Senti, tra l'altro Gianfranco, lì noi abbiamo ripulito un po' il contributo che abbiamo tratto dal vostro portale, dal vostro sito internet, ma in realtà in tutte le telefonate tu chiedi praticamente di parlare con un responsabile di queste persone. Che cosa ti rispondevano? Sì. Ecco. Che il responsabile o non era disponibile o era impegnato in un'altra telefonata o che lì non c'era alcun responsabile. Che quando mi hanno passato una persona che evidentemente non era un responsabile, ma era un loro pari, mi hanno passato, mi hanno cambiato voce, non ho ottenuto alcun successo, cioè non ho avuto informazioni maggiori, soprattutto di dove fossero. Dicevano di essere a Milano, dicevano di essere nella direzione commerciale di questa grande azienda, ovviamente non era vero, anche perché non sapevano se io ero abbonato, per esempio, con la mia linea fissa o meno con quel gestore stesso. E questo è un altro secondo campanello d'allarme, quando qualcuno con cui sono già abbonato mi chiede quali sono le tariffe di cui posso fruire. Che è quello che dicevo anch'io prima, infatti. Sì, ma normalmente dicono no, non possiamo dirlo per una questione di privacy. Mm-hmm. Beh, la privacy con se stessi, la privacy dei miei dati, vabbè, ovviamente è una privacy che non esiste. Dottor, ti faccio, vorrei sentire Giovanni Calabro dell'Antitrust, che cosa pensa di quanto accaduto a D-Day. Dottor Calabro, hai voglia di sanzionarle, multarle, portare a casa milioni di euro appunto di multe e poi però abbiamo veramente l'impressione in certi momenti di avere a che fare con una giungla, ma come va gestita? Guardi, chiaramente il nostro esperto l'ha gestita al meglio, no? Dando proprio un megafono a questo fenomeno. Non tutti lo possono fare, io credo che anche l'autorità per la privacy debba porre ancora maggior attenzione a questi fenomeni, perché è chiaro, soprattutto se uno riceve continuamente, no, telefonate dallo stesso operatore, che non sa neanche, no, chi sta chiamando, non sa che sta ripetendo una chiamata già effettuata, è un problema. Le dirò di più, questo potrebbe configurare anche ai nostri fini una pratica commerciale aggressiva, per cui se ci venisse denunciato l'autorità potrebbe essere chiamata a occuparsi. Certo. È un problema per l'autorità il fatto che ci siano questi call center che chiamano da fuori, sono spesso localizzati in Romania, non so bene dove, dottor Calabrò, per voi questo non è un aspetto rilevante per andare ad indagare sull'attività, appunto? Allora, lo è sicuramente ai fini, diciamo, dell'applicazione della disciplina della privacy, per noi lo è meno perché noi operiamo direttamente su chi ha dato loro il mandato, cioè sul soggetto per conto il quale operano, quindi se è per conto di un'impresa X, noi andiamo sull'impresa X, quindi l'impresa X risponde, su questo c'è proprio giurisprudenza costante, quindi anche l'avallo del giudice amministrativo a seguito, no, del contenzioso sulle nostre decisioni, noi andiamo direttamente sull'impresa X che è pienamente responsabile, chiaro, dell'attività del call center. Quindi non abbiamo bisogno ovviamente di andare su consente in Albania, eccetera. Però è chiaro che le imprese, e questo fa parte di un pacchetto di misure che hanno proposto all'autorità e che noi esamineremo in sede di ottemperanza, devono porre in essere una serie di cautele per evitare che ci siano queste condotte. Ci può essere un disservizio, un computer che va in tilt non può diventare una prassi commerciale. Infatti, Matteo ci scrive: sul mio smartphone c'è la funzione inserisci numero nell'elenco numeri indesiderati, pare funzionare, loro quando chiamano trovano sempre occupato. Per un altro ascoltatore: sono fastidiosissime, peraltro spesso si ricevono chiamate da persone che non capiscono nemmeno l'italiano. Effettivamente abbiamo appunto ragionato sul tema dei call center stranieri. Un paio di ascoltatori al volo, dopodiché passiamo all'altro argomento. C'è Paolo da Padova che aspetta da un po'. Paolo, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Debora. Buongiorno. Anche i vostri ospiti, buona giornata. Senta, due semplici passi io solitamente faccio con questi operatori. Allora, il primo è di non dare mai risposte in assoluto del tipo sì oppure no. Questa è la prima cosa in assoluto. Perché la telefonata può essere registrata, poi esatto, e questo sì, essere così un po' interpretato come un consenso, che in realtà, quindi attenzione. Esattamente. Per esempio, se mi chiamano e mi dicono per il nome e cognome, io evito dicendo buongiorno e basta, dice lei, bisogna dire. Poi, seconda cosa, non riattacco, ma appoggio la cornetta al tavolo dove sta il telefono. Lascio che l'operatore parli, io intanto vado a finire il mio pranzo. Perché solitamente chiamano Insomma, anche io attaccherei, tanto li riconosciamo ormai al volo, poveretti. Non è molto carino da parte nostra sbattere il telefono in faccia a queste persone che, tutto sommato, ribadisco, lavorano, cercano di portarsi a casa uno stipendio, però veramente però è diventato un incubo. Grazie Paolo. Sentirei Lorenzo invece, che ci dà un'altra soluzione e che peraltro molto spesso mi è stato anche suggerito di tornare a spiegarla ai nostri ascoltatori. Paolo, l'altro, no, Lorenzo da Padova, mi ha cancellato Lorenzo, vediamo se c'è ancora Lorenzo. L'abbiamo. Ci sono, buongiorno. Eccoci, sono qua. Lorenzo da Trento. L'avevamo trasferito per un attimo. Vabbè, sempre. Non c'è problema. Racconto brevemente la storia. Io vengo contattato da un call center di una nota compagnia telefonica mobile della quale sono cliente per la sottoscrizione di una impareggiabile offerta. Vabbè, alla fine sembrava come niente, l'ho accettata. Compiliamo a distanza tutta la parte contrattuale, sembra tutto concluso, io attendo questo oggetto che arrivi a Trento e invece viene spedito a Salerno. Vabbè, un errore, comodo per tutti, per carità, rifacciamo nuovamente la procedura di spedizione, non ricevo nulla. Per una volta tanto che gli va bene, che riescono a fare un contratto, li riescono a mandare, che cos'erano spedito a Salerno, il decoder, che cos'era, no, il dispositivo, la DSL? Un tablet. Dopodiché, ecco, molto brevemente mi ricontatta anche in maniera piuttosto scortese il servizio clienti per dirmi che l'offerta era annullata. Io resto un po' perplesso, dico: ma come? Cioè, avete fatto tutto voi, avete voi sbagliato, ma anche l'avete annullata, ok. mi arriva anche la fattura per aver disdetto il servizio. Certo. Di 300 mai utilizzato, peraltro, ovvio, certo. Mai utilizzato, sicché ovviamente io ho preso tutto, è rigido sui miei diritti, ho fatto presente tutto quanto al CoreCom, che è il Consiglio Regionale delle Comunicazioni. Comitato Regionale delle Comunicazioni, grazie Lorenzo. Sì, no, perché guardi, loro quando ascoltano queste trasmissioni mi chiamano e mi dicono: ma perché non parlate anche della nostra attività sul territorio? Quindi Lorenzo, io ho voluto la sua testimonianza proprio per questo motivo. Volevo sentire Riccardo Quintini che cosa ne pensa di questo, il direttore del test. Penso innanzitutto sulla prima telefonata, come dire, è assurdo, e tra l'altro è da 6 comuni, è assurdo avere la preoccupazione di dire un sì al telefono per paura che venga registrato. Insomma, ognuno ha i suoi rimedi casalinghi per affrontare queste situazioni. La seconda testimonianza però è molto interessante, perché dicevo, per una volta che riescono a portare a casa un contratto, sbagliano, lo cannano pure, mandano il tablet da un'altra parte. Detto questo, lui hanno loro disattivato il servizio perché non era mai partito, e fanno pure pagare la penale al consumatore. Beh, è assolutamente scorretto, e ovviamente ha ragione il vostro ascoltatore, ha tutti i diritti di non pagare, e sicuramente l'azienda non ha nessuna ragione. Io aggiungerei solo una cosa, diciamo, perché poi le telefonate commerciali possono anche essere utili, non vanno demonizzate, sempre se condotte, diciamo, con correttezza. Certo. L'importante sarebbe che magari durante la fase di registrazione, che purtroppo poi è l'unica fase contrattuale vera e propria, perché sono pochissime le aziende che mandano il contratto a casa, durante la fase di registrazione si abbiano più informazioni possibili. In realtà, in genere, la prima parte della telefonata in cui noi facciamo domande e riceviamo risposte, e poi la parte di registrazione, che ripeto è la parte contrattuale, quindi quella che rimane, e lì, diciamo, l'operatore va un pochino più di fretta e parla un po' meno, e questo, anche questo, diciamo, non va certo. Allora, è un tema veramente molto gettonato da parte di voi ascoltatori, ci avete chiamato in tanti e noi ci ritorneremo, magari rimettendo insieme i nostri ospiti di stamattina, che ringrazio e saluto: Riccardo Quintini, direttore del test, e dottor Giovanni Calabro, direttore della divisione consumatori dell'antitrust. Salutiamo anche l'avvincente Gianfranco Giardina, direttore di Dide, che ci aiuta molto spesso ad orientarci sui temi tecnologici, appunto, con i quali non abbiamo molta confidenza. Grazie a tutti, se avete altri casi da raccontarci interessanti, scriveteci a cuoredenari@radio24.it e noi ne discuteremo in privato con i nostri ospiti di questa mattina. E allora, Deborah, cambiamo tema, intanto restate con noi, ci ha raggiunto il dottor Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Oggi è una data importante per i fumatori e per coloro che vivono accanto a una persona che fuma, per anche coloro che non hanno mai fumato, una data che probabilmente sarà ricordata come una svolta. Sigarette la mattina, la la la. Allora, il 2 febbraio, una data che sembra avere tutte le carte in regola per meritare di essere ricordata, proprio come è successo per il 10 gennaio 2005, quando, vi ricordate, entrò in vigore la legge Sirchia, che vietò agli italiani di fumare nei locali pubblici e nei posti di lavoro. Bene, da oggi entrano in vigore le nuove regole di legge contenute nel decreto sui tabacchi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio scorso, recependo la direttiva dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo. Così non sarà più possibile fumare nella propria macchina se sono presenti dei minori o donne in gravidanza, e per accendersi una sigaretta all'aperto bisognerà verificare di essere nel posto giusto, e quindi lontano da scuole, ospedali, istituti pediatrici, università. È ammesso di riuscire ad accendere e fumare una sigaretta intera, resta il problema mozzicone: chi lo butta a terra, ma anche nelle acque e negli scarichi, paga, è salato. E non finisce qui, le novità riguardano anche la pubblicità sui pacchetti, gli stessi pacchetti, anche le sigarette elettroniche. Insomma, cari amici, ce n'è per tutti, quindi siamo tutti invitati a commentare al nostro numero verde 800 24 0024 questo nuovo giro di vite. Diteci la vostra, dateci il vostro parere sui divieti contenuti nel decreto, che cosa ne pensate, fateci un po' sentire la vostra opinione, diteci quali sono i divieti che approvate, quali ritenete utili, inutili, non adeguati, eccessivi, e quali invece nel caso vorreste aggiungere. Se avete smesso di fumare, raccontateci come avete fatto, che cosa vi ha aiutato, forse la legge Sirchia, o se siete stati costretti a farlo, come siete riusciti, e chiamateci anche se, pur avendo cercato di smettere più volte, non ci siete riusciti. 800 24 00 24, forse oggi ci aiuta il dottor Boffi a smettere. Dottor Boffi, non forse, buongiorno, ci aiuta. Sai, lo dico perché, scaramanticamente, perché tutte le volte che il dottor Boffi arriva e fa una diretta con noi, sì, ci arrivano mail o sms di ascoltatori che ci dicono: bene, mi ha convinto, provo, oppure mi ha convinto, ci riprovo. E quindi questo, dottor Boffi, qualche ex fumatore lo tiriamo su oggi. Certo, ma poi qualcuno dei vostri radioascoltatori viene anche all'Istituto dei Tumori e smette di fumare, anche da fuori regione. E quindi, allora, dottor Boffi, lei è soddisfatto? La legge Sirchia aveva fatto registrare un calo dei fumatori del 6,5% e del consumo di tabacco del 12%. Che risultati si aspetta lei da questo nuovo giro di vite? Ma me ne aspetto molti, però intanto inizierei a dire che sono passati 11 anni dalla legge antifumo del 2005 di Sirchia, e il primo dato importante scientifico che è stato rilevato è stato che dopo 5 mesi c'era stata una riduzione dell'11% di accessi in pronto soccorso per motivi cardiovascolari, in particolare per l'infarto. Quindi il grande risultato, il grande successo della legge antifumo del 2005 è stato prima di tutto che è stata ben accettata, rispettata, ma direi gradita dalla maggior parte dei fumatori, nonostante che ci volessero far credere che sarebbe venuto chissà che cosa, una rivoluzione, e lo stesso succederà sicuramente anche stavolta. E poi i benefici sulla la minore esposizione al fumo passivo, in particolare nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici. I tre obiettivi, poi ne parleremo spero in dettaglio, di questo nuovo decreto Lorenzin sono mirati a un miglioramento del fumo passivo, quindi si entra finalmente nell'ambito anche del fumo passivo outdoor, quindi all'aperto, ma nei cortili, in particolare dove in presenza di persone sensibili come i bambini e i malati. L'ambiente, i mozziconi, perché i mozziconi inquinano, puzzano e poi fanno anche danneggiano magari soprattutto i bambini che ci giocano, magari in particolare nella sabbia, nelle spiagge. E poi i minori, gli adolescenti, i giovani, e quindi si parlerà magari, spero durante la trasmissione, anche delle sigarette elettroniche e del fatto che si fuma sempre di più, e soprattutto in America è stato visto recentemente che si svapa molto di più nelle scuole. Il fumatore diventa spesso svapatore, voi tra l'altro avete dei dati, è contrario. Anche, cioè, che nei minori c'è questo rischio, è stato evidenziato anche recentemente appunto soprattutto in America, cioè che i minori che svapano poi rischiano poi di diventare dei veri e propri fumatori. Allora 800 24 00 24 commentiamo le nuove norme antifumo, ma il dottor Boffi naturalmente è a nostra disposizione per darci delle indicazioni, per sostenerci, per convincerci se già abbiamo provato e siamo ricaduti, certo, in questa che è una vera e propria dipendenza, a provare, perché dottor Boffi, nonostante tutte i fallimenti, voi siete riusciti a individuare con esattezza che al quarto tentativo di solito si riesce a smettere. Parliamo di cessazione dal fumo, non perché poi si utilizza la sigaretta elettronica, e al quarto tentativo ben fatto si smette. Cioè, ogni tentativo, stiamo parlando di una patologia definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità recidivante, no? Per cui ci sta il fatto di non riuscirci al primo colpo. Ogni tentativo, è stato dimostrato statisticamente, aumenta, arricchisce con l'esperienza positiva e negativa che ci porta averci provato bene, seriamente, magari con un aiuto di un centro antifumo, almeno del proprio medico di famiglia, aumenta la percentuale di successo al tentativo dopo del 25%, per cui 25 più 25 più 25, il quarto tentativo abbiamo il 100% delle nostre potenzialità di riuscire a farcela. Allora diteci se avete smesso, come avete fatto, raccontateci le vostre storie di fumatore o di ex fumatore, chiamateci anche se svapate, se avete un figlio che fuma e non sente ragioni, di solito gli adolescenti le ragioni non le sentono, 800 24 00 24, ma potete mandarci anche i messaggi al 349 238 6666, si sta animando anche WhatsApp, un ascoltatore ci scrive: fumo il sigaro raramente, il quale è composto di foglie essiccate, non inquina come la sigaretta, è biodegradabile al 100%, se lo butto dentro la terra, nei parchi mi multeranno? Allora, ho letto questo messaggio perché solitamente chi fuma il sigaro si sente un po' chiamato fuori, invece anche il sigaro produce danni. In queste leggi si parla di tabacco, quindi sigarette, sigarini, sigare, anche il tranciato. Che va tanto di moda tra i giovani, come peraltro va anche di moda molto il narghilè ultimamente, che invece purtroppo non è normato per quanto riguarda il fumo passivo. E il sigaro sì, emette un tabacco cosiddetto black carbon, che è più grossolano, quindi viene maggiormente assorbito a livello delle alte vie aeree della bocca, quindi può dare più problemi infiammatori o, ahimè, a volte anche oncologici alla bocca, alla gola e alla trachea e meno ai polmoni. Invece le sigarette, in particolare le nuove sigarette, anche quelle che vanno molto di moda tra i giovani, adesso finalmente aboliscono quelle con gli aromi, sì. A parte i pacchetti da 10, ma quelli con il mentolo e la vaniglia, perché danno una falsa credenza ai giovani che facciano meno male, oltre che aumentare il piacere del palato. Ecco, queste sigarettine, le cosiddette light di una volta, che adesso il nome fortunatamente è stato bandito perché è stato dichiarato dall'OMS pubblicità ingannevole, vanno più in profondità e quindi danno più problemi ai bronchioli terminali e ai polmoni, e malattie infiammatorie o anche oncologiche più ai polmoni e meno alla gola. Allora, 800 24 00 24 per commentare le nuove norme antifumo e anche per raccontare quanto può essere difficile per un non fumatore vivere accanto ad un fumatore. Il dottor Boffit in tante occasioni ci ha raccontato che quanto sia pericoloso il fumo di seconda mano e anche il fumo di terza mano, quello che si impregna, no, nell'arredo delle nostre case, dai sedili delle macchine. E torneremo infatti a parlare di macchine. Molti ascoltatori plaudono a questa nuova norma che vieta al guidatore e anche ai passeggeri di fumare in una macchina in presenza di donne incinte o di minori, ma si chiedono: ma chi li multerà? Allora, intanto c'è la legge, ci sono anche i mercati, ma se tu mi permetti, dato che le telefonate sono tante, sentirei subito Maria dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco Maria, vada, faccia Io il suo commento. Una di quella che hai appena parlato. Sì. Sono una che non ha mai fumato, ho sempre lavorato in ambienti tipo bar, gelaterie, cose così, quindi ho fumato tantissimo degli altri. Sì. Mi sono presa un tumore causato dal fumo, ma questa è un'altra storia. Io volevo chiedere, ma sono favorevolissima a tutte queste leggi che sono passate, no? Sì. Per l'amor di Dio, tanto di capello. Ma chi è che le fa rispettare? Siamo in Italia e come tutte le cose le buttano, e dopo chi è che le fa rispettare? Allora, Maria, qualche dubbio sulla possibilità, no, di far rispettare queste leggi, che siano rispettate queste leggi, dubbi che sono sollevati anche da chi, come anticipavo, no, mette un grande punto interrogativo sulla norma che vieta il fumo in macchina, dice: ma fermeranno tutte le macchine? Come sembra che non si riuscirà a multare tutte le persone che per maleducazione, per mancanza anche di posizione, ceneri butteranno i mozziconi per terra. Io proverei in questa trasmissione a cercare di capire che cosa c'è dietro questa norma. Ci sono dei dati scientifici, c'è comunque dietro la norma non solo l'occasione per sanzionare qualcuno, ma le norme sono veramente sostenute da delle evidenze, e quindi c'è proprio il desiderio di tutelare la salute dell'uomo e la salute dell'ambiente. Le leggiamo con questo taglio insieme al dottor Boffi e naturalmente con i vostri interventi, ma prima ci sono i mercati. Mercati che peraltro, per tenerci in argomento, stanno mandando in fumo un bel po' di soldini questa mattina. Adesso vi racconto perché. Cuore e denari. Eh sì, se veramente vietato. In questa puntata commentiamo insieme al dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, le nuove norme antifumo che sono entrate proprio in vigore oggi. Tra i vari divieti ce ne sono alcuni che sembrano mietere più consensi di altri: il divieto di fumo in auto con minori e donne in gravidanza, il divieto di fumo in alcuni luoghi, sebbene all'aperto. Ci sono anche delle precisazioni, delle indicazioni per le sigarette elettroniche, partirei proprio da queste perché, dottor Boffi, voi avete dei dati sul fumo elettronico. Sì, intanto per rispondere anche alla vostra ascoltatrice di prima, sì, che aveva delle perplessità poi sull'applicazione delle normative. Intanto bisogna dire che questo è un doveroso adeguamento a una direttiva europea. E poi che comunque all'Istituto dei Tumori, come dicevate voi, noi in tutti questi anni abbiamo cercato di fare degli esperimenti educational, soprattutto per i giovani, da far vedere alle nostre manifestazioni, alla giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, proprio per far capire la capacità straordinariamente inquinante che ha il fumo e un po' meno anche la sigaretta elettronica, quelle di vecchie, soprattutto quelle di nuova generazione, confrontate con i motori, con altre fonti di inquinamento. Proprio per cercare di far capire alle persone, ai fumatori in particolare, ai giovani ancora di più, che è la sensibilizzazione probabilmente, l'informazione, la conoscenza, la strada più giusta per cercare di migliorare degli certo. stili di vita non adeguati. Però purtroppo, questo vale per il fumo come per molte altre cose, sono le persone che non ci arrivano. Allora lì è giusto che ci siano delle regole e la certezza delle sanzioni. Allora, avete fatto dei confronti tra il potere inquinante della sigaretta, l'avete paragonato ad una moto, l'avete paragonato addirittura a un tir, ma sì. Stiamo ancora sulle sigarette elettroniche. Ma quali sono i dati che allora, le sigarette possiamo elettroniche commentare? Sono tante cose, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni vostre. Direi che sono state anche forse un po' un'occasione persa, perché il nostro obiettivo era e continuerebbe ad essere, se ci fosse una collaborazione da parte anche di chi le produce, di farle tornare nelle farmacie, quindi come prodotto medicale, come sì. uno strumento efficace, verificato, normato bene, di disassuefazione dal fumo. E in questo modo sicuramente possono avere un'efficacia, se ben conosciute, anche quelle con la nicotina per determinati tipi di fumatori. Però il nostro obiettivo è di far capire a chi le usa che è meglio, sono comunque sigarette e quindi è meglio comunque usarle anche se emettono un vapore, non un fumo, fuori, così come si va fortunatamente da 11 anni a fumare fuori. Le vecchie sigarette, che sono quelle con i liquidi, che contengono sì. nicotina e altri aromi, liberano delle sostanze, l'abbiamo trovato noi, anche irritanti, in particolare dei metalli come il nickel, il cromo, l'argento, il piombo, e quindi possono irritare soprattutto gli asmatici, le persone allergiche. Quelle di nuova generazione, che sono il cosiddetto tabacco riscaldato, quelle ancora di più inquinano e emettono sostanze dannose. Abbiamo uno studio in corso di pubblicazione in cui abbiamo verificato che oltre alla nicotina emettono soprattutto le aldeidi, la formaldeide è cancerogena di gruppo 1B per lo IARC. Allora, intanto abbiamo Francesco da Magenta e Roberto da Milano, poi passeremo naturalmente in esame tutti i vari divieti o quelli no, che su cui c'è anche no, una conferma, una letteratura importante, certo. E mi riferisco ai danni del fumo passivo, ai danni quello del alle immagini shock, alle immagini shock sono una cosa importante. Che sarà riportata anche un numero verde dell'Istituto Superiore del di Sanità Centro Antifumo, del Centro sì, perché Antifumo. Ce ne sono più di 300, ecco. La maggior parte delle persone non lo sa. Noi è da tempo che dai tempi del nostro certo. reality per smettere di fumare che invitiamo i nostri ascoltatori a farsi aiutare. Ci sono dei centri antifumo dove si può ci sono farmaci rivolgere. Efficaci. Va bene, allora, quindi tante cose da dire, da raccontare, anche le testimonianze dei nostri ascoltatori, commenti sulle nuove norme. Francesco, buongiorno da Magenta, benvenuto. Buongiorno, grazie. Intanto io sono un ex fumatore, ho smesso per ben due volte di fumare, la prima volta ho fumato per 10 anni, ho smesso per altri 10, ho ripreso per 10 anni ancora, adesso ho rismesso da 9 anni, da quando mi è nato il nipotino ho detto basta, non fumo più, sono ben contento di aver smesso, sto benissimo, ho cominciato a respirare meglio, a far sport e diciamo a fare una vita molto più sana. Volevo fare una domanda in merito a queste sì. nuove normative. Queste normative che sono appena passate, volevo sapere se erano paride anche per quanto riguarda le case abitative, ossia gli appartamenti. Io mi trovo in un appartamento nel quale gli inquilini sotto fumano, non riesco a aereare la casa, non riesco a tenere aperte le finestre e purtroppo non posso dire nulla. No, certo, perché si va fuori, certo. No? Si esce sul balcone per fumare, poi si rientra, soprattutto lo fanno le persone che hanno bambini a casa, e poi il dottor Boffi ci ricorderà, no, i risultati di un suo studio in cui hanno misurato che il fatto che un fumatore continua a inquinare per tre minuti, quindi però il nostro ascoltatore ha ragione, gli arriva il fumo in casa del vicino, lui che cosa può fare? Nulla. Ma sono capitate anche a me a volte al centro antifumo casi di questo tipo. Capitano persone, ad esempio, che hanno un'abitazione al primo piano sopra quei funghetti dove i fumatori vanno fuori a fumare riscaldandosi all'aperto in inverno. No? Sì, lui vorrebbe farli rimanere al gelo. No, hai visto però, quando ha detto quei funghetti dove... Irriducibile. Li spegnerei. Spegnerebbe funghi e naturalmente anche sigarette. Però, non so, si può fare qualcosa con l'ASL, con l'amministratore. Provare a fare un sopralluogo, ecco, e vedere se c'è un ambiente insalubre, come immagino ci sia, provare, come dicevo prima, almeno se non le norme, almeno con la sensibilizzazione. A proposito di luoghi, no, all'aperto, adesso bisognerà fare molta attenzione ad accendersi la sigaretta, perché in alcuni luoghi però anche questo è vietato. È un adeguamento, e mi sembra che una cosa di buon mondo, senso. Ecco, li ricordiamo i luoghi in cui è vietato? Adesso nei cortili, soprattutto degli ospedali, dove ci sono le pediatrie, dove ci sono i malati, da noi all'Istituto dei Tumori, un IRCS per i pazienti oncologici, centro prelievi. Quindi, oltre al discorso di immagine, che a me ovviamente non piace assolutamente alle persone che fumano con sul camice, però è anche un problema di inquinamento, perché i cosiddetti patios, cioè le tettoie dove la gente si ferma all'aperto a fumare, fuori magari anche dagli aeroporti oppure nelle stazioni di sosta, di fermata degli autobus, sono zone in cui si concentrano alti livelli di polveri fini e ultrafini, e quindi nelle persone sensibili, come i malati, ancora di più i minori, che hanno un apparato respiratorio ancora in crescita, in divenire, rischiano veramente di avere grossi problemi con esposizioni anche di breve durata, ma molto elevate di polveri sottili da fumo. Andiamo a Roberto, che ci chiama da Milano. Benvenuto. Buongiorno Roberto. Allora, io sono un ex fumatore, quindi confermo che... Hanno smesso volte... tutti, dottor Boffi, chiamano tutti volte... ex. I peccatori non chiamano, ma gli ex peccatori sì. E ogni volta vedevo che ricominciando ne fumavo sempre di più, finché mi sono detto no, basta, quindi ho smesso da solo, mi sono un po' più impuntato e ho smesso da solo. Mm. Pronto? Sì, la stiamo ascoltando, sì, ammirati, ma Roberto. La mia domanda è questa qua, cioè vi vorrei usare, tra virgolette, per far arrivare questa richiesta qui a chi le leggi le fa. Perché tra i luoghi pubblici non contempliamo anche le spiagge, cioè l'istituto, il coso balneare, dove uno va lì ed è costretto, non è che è una spiaggia libera che va in giro e si cerca il posto. Io arrivo lì, mi danno il mio ombrellone e come vicini ho 1, 2, 3, 4 fumatori, sigari, sigarette, e per 2, 3 settimane, arrivando da Milano, vorrei cambiare aria. E invece si trova il fumo cavolo, ragazzi, per non dire qualcosa di peggio, ho contato persino dalla polizia che c'era lì vicino, ho detto: niente, guardi, non ci sono. Roberto, lei ha ragione. Roberto, quindi vedi, non può che avere ragione. Ecco, tra l'altro, però, saranno multati i fumatori che in spiaggia buttano la sigaretta. Però noi abbiamo, come sapete, perché ne abbiamo già parlato, fatto diversi studi sulle spiagge, collaborato in particolare col comune di Bibione per farla diventare la prima spiaggia d'Italia, una spiaggia enorme, quella di Bibione, e non ha perso affatto turisti, anche esteri, tedeschi, vengono molto più volentieri a Bibione, soprattutto quelli che hanno famiglie, che hanno minori, perché è una spiaggia dove si respira un'aria molto migliore. Allora, 800 24 00 24, è tempo di andare a guidare un po', anzi no, lasciamo guidare gli altri, sentiamo se si stanno comportando tutti bene sulle strade italiane, tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta Cuore e Denari. C'è tanto tempo ancora, il tempo di una sigaretta. Guarda, pigramente. Torniamo a parlare delle norme antifumo, entrano in vigore oggi e questa è un'occasione per cercare di essere aggiornati sui risultati degli studi. Ci aiuta il dottor Boffi che sottolineano naturalmente che quanto il fumo sia dannoso. Ci sono anche dei dati sul potere inquinante delle sigarette elettroniche. 800 24 00 24. E a proposito di sigarette elettroniche, voglio leggerle un messaggio di un ascoltatore che si firma F. Non ci sono evidenze scientifiche che le sigarette elettroniche facciano male a chi svapa. Lo sapete, dottor Boffi, e sapete che la nicotina è dannosa solo in percentuali talmente elevate da essere impossibile da verificarsi. E quindi da domani mi daranno fastidio quelle che respirano, dato che emettono anidride carbonico. Ho letto con piacere questo messaggio, perché spesso siamo un po' infastiditi, no? Quando sentiamo delle cose che non ci piacciono. Dottor Boffi, mettiamo un po' i puntini su lei riguardo alla nicotina, le sigarette elettroniche, che sono sicuramente un'opportunità per chi... No? Decide di smettere sì, sì. di fumare, per alcuni poi lo svapo diventa il modo di fumare, ecco, sì, non... sì, sì. Ma allora, per quanto riguarda la nicotina va detto questo: anch'io non adoro gli studi sulla pericolosità della nicotina, ma non perché la nicotina non sia una sostanza dannosa, è un veleno, quindi ad alte concentrazioni, ad esempio se tu la bevi la nicotina delle cartucce di sigarette elettroniche, rischi veramente di morire. Ecco, non, sì, infatti, quello va evitato. Certo. Ecco. Però, ad esempio, una delle norme del nuovo decreto è che sono elencate tutte le 70 sostanze cancerogene gruppo 1 per lo IARC nella sigaretta. In queste 70 non c'è la nicotina. Quindi la nicotina, il principale problema che porta al corpo umano la nicotina quando noi fumiamo è di generare dipendenza, una dipendenza pazzesca, una dipendenza superiore a quella delle droghe maggiori. Tanto è vero che ci sono quasi 11 milioni di fumatori in Italia, mi spieghino come mai, se fosse solo un piacere e non una dipendenza. Quindi il problema della nicotina c'è, non fa bene neanche la nicotina delle sigarette elettroniche, ma soprattutto genera dipendenza. Questo va detto. Per quanto riguarda invece tutte le altre sostanze che sono le polveri sottili, il catrame e il monossido di carbonio, ecco, questo c'è in quantità minima nelle sigarette elettroniche di vecchia e di nuova generazione. Il monossido di carbonio è proprio zero perché non c'è combustione. Le sostanze irritanti o cancerogene, come ho detto prima, ci possono essere però in piccola quantità, soprattutto nelle sigarette elettroniche di vecchia generazione, di cui sentiremo sempre più parlare perché c'è stato un grosso investimento da parte della principale multinazionale del tabacco sull'Italia, per cui vedremo sempre più gente usare queste sigarette elettroniche che mettono un aerosol di tabacco riscaldato, che secondo noi va regolamentato e va assunto fuori, perché altrimenti l'ambiente si inquina non solo di nicotina ma anche di sostanze cancerogene come la formaldeide. 800 24 00 24, andremo tra poco da Lorenzo che ci chiama da Padova, poi Deborah, anche Leonardo da Latina, insomma qua veramente gli aspetti che vengono toccati sono tantissimi. Molto, ma sì. Vogliamo leggere la domanda che ci permette di dare anche un quadro, di affrontare anche il secondo tema di cui volevamo parlare, cioè l'aria che noi respiriamo. Con tutto lo smog che c'è sulle strade, ci scrive un ascoltatore, ma ci preoccupiamo di un po' di fumo, insomma, dottor Boffi. Sì, ci continuiamo a preoccupare anche di una nuvoletta di fumo. Ci preoccupiamo di tutte e due le cose. Lei se lo sarà sentito ripetere tante volte, certo, nel suo ambulatorio. Dottore, ma perché devo smettere quando vivo in una città come Milano, dove c'è un'aria inquinata, dove i livelli di allarme vengono sempre riportati, anche siamo sempre sulle pagine del giornale, purtroppo anche adesso in attesa della pioggia. Allora, Ma noi le definiamo due emergenze da affrontare seriamente e rapidamente, sia quello del problema dell'inquinamento urbano, in particolare quello da traffico veicolare, quindi il cosiddetto inquinamento da prossimità, che sia stando 100 metri, 150 metri al massimo da una via molto trafficata, soprattutto se corriamo, se andiamo in bici, se iperventiliamo in queste situazioni. Io ho dato un sacco di mascherine col filtro antiparticolato questo inverno ai miei pazienti asmatici. Non è bello andare in giro con le mascherine, sono scomode tra l'altro. però per tutelare la loro salute. E poi c'è il problema però del fumo. Ma lei li consiglierebbe anche ai bambini, dottor Boffi, sì, a proposito di mascherina? Sì, lei quando ad esempio a Milano, nelle città, c'è un livello di inquinamento così superiore a quelli, ai limiti concessi, lei suggerirebbe l'utilizzo di queste mascherine, di cui noi abbiamo già parlato in un'altra puntata con... dei pareri un po' contrastanti tra il ci sono mascherine e mascherine, esperti. Perché se vediamo le foto che ci sono sui giornali, su internet della Cina, no, le mascherine a chirurgo, quelle sono solo d'immagine, non fanno nulla. Però quelle col filtro antiparticolato, con la valvolina unidirezionale, quelle trattengono, secondo i nostri dati, il 99% del particolato, anche del black carbon, quindi non solo inutili, solo scomode, però, perché devono aderire completamente alla faccia, altrimenti l'aria filtra. Lei ha detto che le ha consigliate ai suoi pazienti asmatici, ma lei li consiglierebbe anche ad un bambino che ha dei bambini, ad altre categorie di persone magari con malattie croniche? Soprattutto in posizioni molto a rischio, perché se noi guardiamo il PM10 in generale, è una marmellata dall'alto, il satellite a pianura padana non cambia nulla, allora essere vicino a una via trafficata o una tangenziale. Se invece noi guardiamo la qualità del PM10, il cosiddetto black carbon, cioè la presenza di sostanze più tossiche, queste, come dicevo prima, hanno un gradiente di diffusibilità di poche centinaia di metri, quindi dobbiamo cercare di non correre, almeno come si fa a non far correre un bambino a non giocare a calcio, vicino a una via molto trafficata e soprattutto nelle ore di picco del traffico, quindi al mattino dalle 7:30 a 9:30 e al pomeriggio dalle 5:30 alle 8:30 di pomeriggio. Questo non è bello, lo so che non è bello, però in attesa di cambiamenti, di soluzioni strutturali, sono un modo per tutelare la nostra salute, soprattutto per persone che già stanno male. Allora, una mamma ci scrive su WhatsApp: mia figlia deve andare a Pechino per lavoro, che precauzioni deve prendere? Facciamo mettere la mascherina anche a lei? Beh, insomma, certo, la Cina in questo momento è veramente in una grossissima difficoltà, però anche loro stanno cominciando a correre ai ripari, non è facile visto la loro sovrappopolazione. Non riusciamo a dare una risposta a tutte le vostre domande e passarle in diretta, naturalmente potete scriverci e noi invieremo le vostre richieste al dottor Boffi. Intanto Lorenzo da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Abbiamo proprio pochissimi minuti, così lasciamo anche l'intervento di Leonardo. Vada Lorenzo, grazie per aver chiamato. Raccontare la mia esperienza di ex fumatore, sono un insegnante e ho smesso di fumare ben 2 o 3 volte, l'ultima volta per 8 anni, poi ho ripreso. Adesso ho smesso, spero, per la 4ª volta e quindi definitiva da 1 anno. E a scuola vedo che tutti i ragazzini hanno la sigaretta in mano. Certo. Ci sono proprio delle nuvolone da attraversare. Si nascondono in giardino, dietro la palestra, ma si vedono proprio le nuvole che salgono in lontananza. E noi insegnanti, magari fumatori, adesso io sono ex fumatore, dovremmo inseguirli, coglierli sul fatto e multarli. E questo già da un po' di tempo, non certo con l'ultimo decreto. Comunque volevo intervenire sul fatto della sigaretta elettronica. Sì, però Lorenzo, stiamo veramente andando in chiusura. Rapidamente. Volevo solo dire questo, che le statistiche che dicono che i ragazzi che fumano la sigaretta elettronica poi passano più facilmente a quella di tabacco, in realtà non tengono conto che quelli che iniziano con la sigaretta elettronica sarebbero inevitabilmente finiti a fumare sigarette di tabacco. Era solo un tentativo per evitarlo, ma evidentemente non ci riescono. C'è già una predisposizione. C'è già una predisposizione, dice Lorenzo. Dottor Boffi, allora, vuole in 30 secondi dare un messaggio? Il problema delle scuole è un problema molto grosso. Non abbiamo parlato delle immagini shock a colori, ma probabilmente su queste categorie di persone un pochino più impressionabili, più attente anche all'immagine, come possono essere i giovani, è già stato fatto uno studio in Australia, ha funzionato. Quindi perché no? Speriamo che il potere delle immagini. È una lotta dura, ma ci proviamo. Dottor Boffi, devo salutarla. Prendiamo l'appuntamento subito con lui per un'altra puntata a breve, direi. Grazie, le inoltreremo le tante richieste dei nostri ascoltatori. Volentieri. Buon lavoro. Grazie. Noi torniamo domani, buona giornata a tutti.